tutto. Passa, tutto. Passa, tutto. Passa, tutto. Passa, tutto. Passa, tutto. Passa, tutto. Tutto. Tutto. Tutto. Tutto. Tutto. Oh. Adicto. Adicto. Adicto. Adicto. Vale. Vamos a hacer grupos de tres. Adicto.